Bene, buonasera, io sono Tony, grazie a tutti di essere qui, vi do il benvenuto a nome del Nodo Sociale Antifascista che insomma da tempo ha pensato e poi vi ha organizzato questa iniziativa. È una tappa del nostro impegno, un impegno di piazza, ma un impegno anche di riflessione, di appunto un impegno personale, collettivo e anche dal punto di vista materiale ed economico di sostegno a Rojava, che dura da almeno 5 anni. Quando abbiamo cominciato a ragionare su questa possibile iniziativa eravamo in una fase in cui gli accordi tra Turchia e Unione Europea avevano avuto 2 evidenti conseguenze. Da una parte, ed è venuto direi alla ribalta proprio in questi giorni, no? Si è sfogliato i giornali, alcuni giornali perlomeno, il continuo rifornimento di armi e di mezzi militari da parte dei governi aderenti all'Unione Europea, alla Turchia, all'esercito turco. E d'altra parte, appunto, questi accordi tra Turchia e Unione Europea, no? Riguardanti in particolare la questione migratoria, avevano come conseguenza il silenzio mediatico nella repressione, riguardo alla repressione anticurda, che non si è mai fermata nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Evidentemente su questo nostro pensiero e volontà di organizzare una serata come questa è piombata come un macigno nella sua tragicità la guerra di cui si è parlato appunto adesso. Probabilmente 2 parole ulteriori è necessario usarle per questa guerra. Sapete che probabilmente insomma che sono in corso da diversi giorni, da circa una settimana almeno, bombardamenti sulla città di Afrin, che ci sono decine di morti civili. Probabilmente sapete anche che il governo turco sta continuando a sostenere che sta combattendo l'ISIS, andando così diciamo di concerto con di fatto gli Stati Uniti, che proprio questo si vogliono sentir dire. La realtà è ben diversa, perché di islamisti ad Afrin non ce ne sono, ma ci sono invece decine di migliaia di sfollati siriani da Aleppo, da Raqqa, da Idlib, che oggi sono rifugiati per la seconda volta e sotto i bombardamenti. Probabilmente vi è anche noto il fatto che Afrin fa parte di uno dei 3 cantoni in cui appunto è da tempo i curdi stanno sperimentando quella forma di autogoverno che prende il nome di confederalismo democratico, di cui avremo occasione di parlare anche stasera. Mi pare evidente che al di là degli schieramenti ufficiali è questa un'operazione indirettamente, perlomeno indirettamente, avallata tanto da Washington quanto da Mosca. E se avete seguito un po' le notizie anche interne alla Turchia avrete visto che Erdogan è certamente in cerca di sostegno appunto all'interno, no? E quindi da una parte il governo turco cerca di camuffare il numero di soldati uccisi, nel senso che sarebbero molto di più di quelli che dichiara il governo turco, appunto, secondo le forze curde almeno sono molti di più, cioè da una parte si dice si contano sul palmo di una mano e dall'altra si parla almeno di un paio di centinaia, e d'altra parte cercando ancora di ridurre in silenzio, continuare a ridurre in silenzio, probabilmente dovrei dire, la stampa critica e procedendo ad arresti. Quindi queste, diciamo, sono alcune delle ultime notizie riguardo alla guerra. E certamente c'è da chiedersi perché, e probabilmente una prima generale o generica risposta è il fatto che non si tratta solo qui da parte del governo turco dell'elite di governo turco e dell'elite militare turca di dare sfogo a un sentimento anticurdo ben radicato, come sappiamo. Mi pare evidente la volontà di far deragliare quel processo rivoluzionario in atto, che prende appunto il nome di confederalismo democratico, e che si può caratterizzare con alcune parole, diciamo, con alcuni concetti che ci stanno alla base, cioè quello di decentramento amministrativo, certamente, di democrazia diretta, quindi in sostanza di autogoverno in assenza di Stato, in assenza deliberata di Stato, e quindi concetti che mi pare riprendano molte delle indicazioni sviluppate dal pensiero e dalla pratica anarchica dalla Comune di Parigi ai giorni nostri. Ecco, a questo riguardo io qui mi fermo, lascio la parola innanzitutto a Pachino e a Jack, che ci racconteranno, compagni di alcuni squat torinesi, che ci racconteranno della loro esperienza diretta sul campo, quindi sotto diversi punti di vista. Dopodiché riprenderò la parola brevemente per avviare un approfondimento con Daniele Barbieri su un testo uscito recentemente, appunto, sull'esperienza di una democrazia senza Stato, ovvero sul confederalismo democratico. La parola a Pachino. Beh, intanto grazie a tutte per essere qui presenti questa sera, questa iniziativa. Io cercherò di affrontare brevemente che cos'è l'OIEP, che tutte quante, diciamo, noi conosciamo l'OIEPG, l'unità di difesa del popolo, l'unità femminile di difesa, l'IEPG, però magari in molti non sanno la storia, come anche io, come anche penso molti di voi, abbiamo conosciuto queste unità di difesa del popolo grazie anche all'eroica resistenza della città di Kobane, che fu attaccata nel 2014, in cui molti di noi ci avvicinammo a questa esperienza di autogoverno che ancora sta andando avanti e si sta espandendo, diciamo, nel nord della Siria. Ma le unità di difesa del popolo nacquero molto prima del 2014, esattamente era il 2004, in cui nel 2004, quando ancora in Siria, diciamo, governava il regime di Assad, nella città di Carcelo, che si trova qui sulla destra della cartina, si svolgeva una partita di calcio tra la squadra cittadina della città di Carcero e la squadra di Dere Zor. Quando arrivarono, diciamo, i tifosi di Dere Zor e inneggiavano a Saddam Hussein, quel periodo lì era proprio anche il periodo della guerra in Iraq, incominciò ad attaccare la popolazione locale della città di Carcero e i tifosi della squadra di calcio. Quindi lì il regime intervenne assolutamente non a favore dei curdi, ma a favore, diciamo, dei tifosi, degli ultra della città di Dere Zor, e quindi ci furono decine di morti per le strade, così anche come nello stadio del, diciamo, cittadino di Carcero. E quindi da lì nacque la necessità che anche la popolazione curda che viveva nel nord della Siria, che da decenni era sottomessa dal regime di Assad, nacque proprio la necessità di creare un'unità di difesa popolare. Io cercherò di essere il più breve possibile, come detto, diciamo, all'inizio, quindi no, figurati, nessuno vuole parlare per ore, anzi dopo verrà lasciata la parola. Io vorrei capire tutti Però se prima mi fai finire così... È lontana la cosa, tu parli, però non lo so. No, comunque, se non mi interrompi, sennò mi perdo anch'io, per favore. Tutto il tempo per le domande dopo. Dopo c'è tutte, sarò brevissimo, dopo ci sarà il compagno Jack e il compagno Daniele. Comunque, stavo dire, eravamo arrivati alla partita di calcio, quindi ci fu il regime Assate, che è proprio... Se io mi chiamo Vittoria, adesso vado a dormire. E non c'è di qua. Ok, ciao. Buonanotte, grazie. No, comunque stavo... Mi sto perso, scusate un attimo, quando mi interrompo. No. Allora, come in Jugoslavia i casini cominciano con una partita di calcio. Sì, questo qui diciamo fu proprio il motivo in cui nacque proprio l'unità di difesa del popolo, proprio e anche il popolo curdo. L'unica realtà che diciamo che aveva nel nord della Siria, che lo rappresentava, era il PD, il maggior partito politico nel nord della Siria, che era stato messo al bando dal regime, e quindi da lì venne creata questa unità di difesa popolare, che all'inizio era formata da poche decine di persone, ovviamente lavoravano clandestinamente, le riunioni venivano fatte clandestinamente o appoggiate nel senso all'interno degli appartamenti della popolazione che appoggiava i compagni e le compagne. Poi il tutto diciamo esplose, come tutti pensando, quando i venti della primavera araba, che prima sconvolsero il nord dell'Africa e poi arrivarono fino in Siria, i compagni e le compagne si smarcarono da questa rivoluzione diciamo siriana, che in alcune parti voleva togliere un potere, imporne un altro, anche se in alcune zone della Siria, come magari ad Homs o ad Hana, la gente si stava organizzando con altre diciamo comune, più ed erano molto presenti anche le realtà anarchiche sia ad Aleppo, sia a Damasco, sia ad Homs che ad Hana. Quindi i compagni diciamo che erano stabili nel nord della Siria, anche perché il nord della Siria è popolato da molti curdi, quindi decisero di smarcarsi, di non appoggiare né Assad ma nemmeno i ribelli, che all'inizio erano finanziati dall'Occidente solo in tema d'Assad per ribaltare il regime Assad. C'era proprio un attacco diciamo imperialista dagli stati proprio per estromettere Assad e farlo fuori. Quindi in alcune zone della Siria nel 2012 si ebbero degli scontri con il regime, soprattutto nell'ovest del paese, verso la zona di Derbik, che si trova proprio al confine diciamo iracheno, vicino alla città di Kamshro. Lì si ebbero degli scontri in cui dopo qualche giorno il regime decise di ritirarsi, in una città come Kobane, che era diciamo il simbolo del popolo curdo, in cui aveva vissuto anche Abdullah Öcalan, il leader storico e fondatore del PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan. Lì il regime Assad, per non ritrovarsi un nuovo nemico, un nemico in più in questa diciamo rivoluzione, in questa ormai che era diventata una guerra civile, decise di ritirarsi. Quindi nel 2012, esattamente era il 20 luglio del 2012, i compagni e le compagne insieme alla popolazione locale prese il controllo di molte città e molte zone, il regime si ritirò. In altre zone di alcune città, come la città di Kamshro oppure la città di Asake, che si trova un po' più a sud, alcuni quartieri rimasero controllati ancora dal regime, proprio perché la popolazione voleva il regime. E quindi anche i compagni e le compagne, per non imporre assolutamente il proprio controllo militare, cercavano prima di fare un lavoro sulla popolazione, in modo che fosse la popolazione che abbandonasse il regime, ma l'obiettivo non era quello di attaccare diciamo i quartieri che ancora erano controllati dal regime, proprio perché la popolazione diciamo sosteneva l'esercito di Assad. Quindi da lì all'inizio fu scritto il contratto sociale del Rojava, una sorta di costituzione, se così vogliamo chiamarla, E poi da lì, diciamo, dopo il 2012, in cui si stava creando questa confederazione che era assolutamente aperta a tutte le etnie, a tutti i gruppi, dagli arabi a siri, armeni, circassi e assolutamente anche i curdi, quindi cercò di allargarsi per prendere il controllo di altri territori, sempre avendo il sostegno della popolazione, anche se poi nel 2013 molte, diciamo, bande jihadiste di Al-Qaeda passarono il confine turco nella città di Serekaniye, che si trova vicino diciamo a 50 km dalla città di Amude, che si trova proprio attaccata alla Turchia. Oltrepassarono il confine proprio per attaccare la città di Serekaniye, e quello fu il primo vero scontro che si ebbe, diciamo, che le compagnie ebbero contro, come dire, un esercito che era assolutamente formato militarmente anche molto equipaggiato di armi, proprio perché sostenuto dalla Turchia, che non voleva assolutamente una formazione curda nei propri confini, proprio perché anche storicamente la Turchia è nemico e porta avanti un genocidio da decenni contro il popolo curdo. Da lì la battaglia per la città di Serekaniye, dopo 3 settimane fortunatamente la città fu liberata da queste bande che attaccarono duramente la città, e quindi da lì i compagni cercarono di liberare altri territori che erano stati occupati dai jihadisti di Al-Qaeda, fino a quando si arriva nel 2014, in cui, diciamo, l'ISIS sprigiona la sua potenza militare, prima partendo dall'Iraq, da Mosul, e poi passando per la frontiera siriano-irachena, e quindi da lì l'ISIS, che aveva una forza molto potente anche grazie ai migliaia di mezzi e di armi che aveva conquistato nelle precedenti città in Iraq, attaccarono duramente il Rojava e il sistema confederale del Rojava, e quindi da lì si iniziò una dura guerra, che fu una guerra di liberazione e anche di resistenza contro un nemico che era molto forte militarmente ma anche ideologicamente. Quindi da lì si arrivò nel 2014, anche come dicevo prima, come tutti quanti noi abbiamo conosciuto la resistenza e la resistenza eroica della città di Kobane. Io e il compagno siamo arrivati per la prima volta a conoscenza della città della resistenza del popolo curdo proprio nel 2014, quando ci siamo recati a Suruç per la prima volta, e da lì a Kobane si stava combattendo una guerra molto, molto dura, molto aspra, in cui Kobane ormai era rimasto il 5% sotto il controllo dei compagni e delle compagne. L'ISIS assolutamente stava schiacciando la città, la stava assolutamente conquistando, anche perché da nord i compagni e le compagne erano chiusi dalla Turchia, sia a est, a sud che ad ovest erano circondati dall'ISIS, e poi dal dicembre del 2014 i compagni iniziano a liberare pian piano alcuni quartieri, fin quando si arriva alla liberazione della città di Kobane, che avviene nel gennaio del 2015. Quindi da lì, quando ormai anche la rivoluzione del Rojava viene conosciuta in tutto il mondo, anche grazie alla resistenza portata avanti, i compagni e le compagne cercano di portare avanti quello che è il progetto iniziale rivoluzionario del Rojava, quello di unire i 3 cantoni che sono Gesire, che no, non c'è più la cantina, è scomparsa. Che sono Gesire, che si trova, diciamo, che la capitale è Kamshlo, Kobane, proprio che è la capitale del cantone Kobane, e il cantone di Efrin. In quel momento lì i 3 cantoni erano ancora separati nel gennaio del 2015, fin quando poi vengono riuniti nel novembre del 2015, quando la città di Gerefi, che si trova più o meno a 60 km ad ovest di Kobane, viene liberata, e quindi da lì i 2 cantoni, che sono Kobane e Cesire, vengono uniti. Poi anche dal 2015 i compagni e le compagne anche hanno un'apertura verso tutti gli altri popoli che vivono nel nord della Siria, in primis creando le SDF, che sono le Syrian Democratic forze che comprendono il 60% sono gli EPG e gli EPG, che sono principalmente forze di cui fanno parte diciamo la popolazione curda, anche se nell'ultimo anno sono molti gli arabi o altre etnie che si sono diciamo unite agli EPG e gli EPG. Proprio creano questa forza qui anche per avere un'apertura verso tutti gli altri popoli e cercare di farli entrare all'interno del progetto rivoluzionario del confederalismo democratico, che diciamo questo progetto qui ha il suo fine diciamo ultimo in quello della creazione proprio della Confederazione Democratica dell'Asia del Nord, in cui il nome Rojava scompare nel marzo del 2016, proprio perché anche Rojava in curdo vuol dire ovest del Kurdistan, proprio perché si trova a ovest di tutto il Kurdistan, che è tutto quello tratteggiato in giallo. No, per favore, non mi interrompere. Finisco e fa la domanda, sennò poi mi perdo di nuovo, per favore. Quindi diciamo viene eliminato il nome Rojava, il nome che prende diciamo il della Siria è proprio Confederazione Democratica nel nord della Siria, in cui ogni etnia che è presente nel nord della Siria è rappresentata dai propri rappresentanti, che sono sempre un uomo e una donna. E quindi qui proprio siamo nel 2016, in cui anche poi sempre il progetto, quello di unire cantoni che gestire Kobane, erano stati uniti nel novembre 2015, vanno avanti fino a portarsi verso la città di Manbiji, che si trova diciamo a 20 km dalla città di Efrin, che viene liberata nell'agosto del 2016, ma poi da lì proprio la Turchia, vedendo la forza che hanno l'SDF, le Syrian Democratic Force e le YPG, quindi si mettono di mezzo facendo partire un'operazione militare nell'agosto del 2016, scudo dell'Eufrate, proprio per cercare di non far unire i due cantoni, quanto ormai mancavano solo 12 km proprio per arrivare fino al cantone di Efrin. Diciamo, queste sono più o meno una cronostoria su quello che è lo YPG, degli avvenimenti che sono stati negli ultimi diciamo 5 anni da quando è iniziata la rivoluzione. Poi io personalmente sono arrivato in Siria nell'agosto del 2016, ma magari adesso il compagno Cecchedar può spiegarvi meglio che cosa si apprende nello YPG, che non è assolutamente solo tattica militare, ma è proprio ben altro che quello di mettere in pratica anche nel piccolo il confederalismo democratico. Allora, buonasera a tutti quanti, io sono arrivato nel Kurdistan 2 mesi dopo Azadi, sono arrivato a ottobre del 2016 e poi sono ritornato indietro il 20 di ottobre scorso, 2017. Io con altri compagni siamo arrivati più o meno come il percorso classico, siamo arrivati nel Bashur, che sarebbe il Kurdistan del Sud, in particolare nella parte sostanzialmente autonoma organizzata e governata da KRG, governo regionale curdo, che è organizzato e gestito dal partito KDP, che ha un leader assoluto che è anche il capo di tutta la struttura, che si chiama Barzani, Masud Barzani, che è la terza generazione della famiglia Barzani, che ha fondato, il cui nonno ha fondato il gruppo dei guerrieri dei Peshmerga, che sono uno dei gruppi più famosi, ed sono quelli che sono normalmente citati nei giornali, Stampa, Repubblica, Corriere della Sera. Se si parla di curdi, di solito tendenzialmente si parla di Peshmerga, che però sono soltanto sostanzialmente quelli del Bashur, del Kurdistan, dell'Iraq del Nord. Invece i curdi dell'SDF sono suddivisi in 4 stati diversi. Qua dietro c'è una cartina più o meno attendibile, qui abbiamo la parte della Turchia che è la parte più grande, che è il Bakur, il nord, il Bashur, il sud, come vi dicevo, poi c'è la parte, come diceva prima Zadi, che è la parte ovest, che è il Rojava, e la parte poi suddivisa nello Stato nella Repubblica Islamica dell'Iran, che è il Rojilat. Si arriva quindi a nel Kurdistan di Barzani, in particolare nella città di Sulimania, e da lì, dalla città di Sulimania, con i contatti, con i compagni, ci siamo spostati verso il confine siriano, già nella struttura, nel cantone di Jezira, quindi in Siria, quindi abbiamo superato il confine, abbiamo superato il fiume Tigri e siamo arrivati in quella che è la prima postazione che normalmente gli internazionali, gli internazionalisti come noi vanno a visitare e a frequentare. Quindi nella zona, nelle campagne di Derik, la città di Derik, a 40 km dalla città di Derik circa, c'è un'accademia di internazionali, internazionalisti, in cui confluiscono tutti i compagni e le compagne che vogliono andare a supportare la rivoluzione come in qualche modo possono, diciamo, per quanto riguarda la struttura militare, quindi lo YPG, le Yekinen Barstinagel, le unità di difesa del popolo. L'accademia dura sostanzialmente 4 settimane, un mese, e in queste 4 settimane la cosa principale, uno degli strumenti più importanti è il corso di lingua curda, perché la lingua inglese non è assolutamente la lingua veicolare con cui normalmente si può parlare genericamente in Medio Oriente, ma tantomeno nelle zone del Kurdistan, e quindi lezioni di curdo tutti i giorni, 2-3 ore, poi una parte di introduzione, ideologia di base, che sono i fondamenti del confederalismo democratico, la liberazione delle donne, il ruolo preeminente, importante della donna all'interno di questa rivoluzione, e la struttura politica, come sono le donne? Sono le ottime proprie compagne. E l'altro diciamo caposaldo, il terzo, che sarebbe l'importanza e il valore del mantenimento dell'ambiente, quindi l'approccio ecologico alla struttura economica, quindi un approccio strettamente anticapitalista, perché evidentemente sono in antitesi. Quindi una parte di struttura, storia, i passi fondamentali della rivoluzione in Rojava, che parte dal 2012, quindi già da prima, poi di arrivare al nord delle cronache con la resistenza di Kobane, e poi anche ovviamente rudimenti di base delle tattiche, della struttura, dell'insegnamento delle strutture di base, delle armi, eccetera, eccetera. Dopo questo mese, noi, cioè il gruppo che si è incontrato principalmente nell'undicesimo ciclo dell'Accademia, che era novembre 2016, decidiamo di fondare un gruppo di internazionalisti avendo, diciamo, la cura di avere anche un approccio anche ideologico e politico, quindi raggruppiamo assieme come area anarchici, comunisti, socialisti, libertari, e quindi non soltanto quella che è la componente maggioritaria degli internazionali che vanno a combattere in Rojava, cioè principalmente militari ed ex militari, che hanno anche le proprie ragioni, ma sicuramente non hanno sempre una leva politica, la difesa della rivoluzione che li porta e li spinge a mettersi in gioco a combattere l'ISIS. Quindi, scusa, con questo... io mi chiamo Vittoria. Vittoria, certo. Quindi a questo punto... Io mi chiamo Vittoria. No, ma perché mi devi cacciare? Quindi a questo punto decidiamo di organizzare questa... Contro la guerra, contro ISIS e contro i militari. Quindi decidiamo di organizzare questo gruppo che si chiamerà AID, che è Unità Antifascista Internazionalista. Questa cosa va avanti per noi circa 6 mesi, e poi alcune persone ritornano indietro, cioè che è arrivato prima, altre persone si spostano, e in questo gruppo, in questa unità di internazionalisti coinvolgiamo persone che vengono dalla Francia, dal Canada, dalla Spagna, a volte compagni, a volte anche ex militari che si trovano in linea con le nostre cose, con le nostre idee. Questa è una struttura assolutamente interna al YPG. Decidiamo solo semplicemente, domandiamo della possibilità di poter avere un piccolo gruppo che possa interagire al suo interno con la lingua inglese, che è un vantaggio rispetto all'interazione con rispetto alla lingua curda, che è legata sicuramente a alcune difficoltà, perché non è esattamente semplice come tutte le lingue che uno è abituato a sentire ad ascoltare. Quindi dopo questo mese ci muoviamo in questa struttura, in questa piccola unità all'interno dello spostamento delle cose che fanno lo YPGE. A dicembre del 2016 parte ufficialmente l'operazione dell'SDF, le Coexuria Democratic, ossia il KSD come acronimo, ossia in inglese le Syrian Democratic Force, le SDF, che i giornali hanno citato, citano comunque, che si sa, esiste appunto una coalizione di più forze diverse anche dal punto di vista etnico e culturale. Quindi sicuramente l'attrazione di questa coalizione è curda, con al centro gli YPG, ma ci sono anche tutte le altre forze, le altre componenti presenti nei tre cantoni, quindi la parte delle milizie arabe, i KSD semplicemente, o anche i cristiani siriaci dell'MFSE, parti di quello che una volta era partito come gruppo e fronte di ribellione nei confronti del governo dittatoriale di Assad, di Bashar al-Assad, che si è staccato dal Free Syrian Army, l'esercito siriano libero, quando questo è stato sostanzialmente cooptato e riorganizzato dai turchi, e che non a caso infatti in questi giorni, in queste settimane, stanno lanciando e stanno mandando contro i curdi del cantone di Afrin, usandoli più o meno sostanzialmente come carne da macello, per non far combattere direttamente in prima linea i soldati turchi che stanno più nelle retrovie. Quindi queste parti del raggruppamento arabi di religione islamica presenti nel Free Syrian Army si staccano dal Free Syrian Army e vanno a confluire poi nell'SDF, ed erano Jaish al-Tuar, più anche componenti tribali, più anche altri piccoli frazionamenti. Quindi è una grande coalizione, perché sostanzialmente quello che si vede è il territorio, quello che si vede in giallo-arancione nella parte nord della Siria, è il territorio che tradizionalmente è legato all'etnia e alla cultura curda, che poi al suo interno è ancora ulteriormente frammentato, perché tutti e quattro gli stati si sono trovati sempre d'accordo, anche se in litigio, in combattimento costante per egemonie locali, Turchia contro la Siria, Turchia contro l'Iran, contro l'Iraq, eccetera, eccetera, si sono sempre trovati d'accordo nel reprimere localmente la minoranza dei curdi. Quindi possiamo anche farci la guerra, come hanno fatto la guerra in Iraq, Iran dall'80 al 1980 al 1988, però se si dovevano gasare i curdi o andare a bombardare i curdi, su questo c'era sempre molto accordo, perché fa parte del mantenimento dello status quo dei quattro stati in cui è stato oculatamente smembrato quello che doveva essere il territorio e ipoteticamente lo stato dei curdi. Quindi le SDF partono a dicembre del 2016 con l'operazione Pengava Hezebafirat, operazione Ira dell'Eufrate, che ha come obiettivo quello di procedere al di sotto e al di là dei confini, diciamo, storici del territorio curdo, e andare ad arrivare lungo l'Eufrate, sostanzialmente in questa in questo punto qua, dove ci sarebbe la città di Raqqa, che era simbolicamente, anche attualmente praticamente, la capitale sedicente del califfato islamico, quindi la città più importante in mano all'ISIS o Daesh in Siria, il parallelo della città più importante dell'ISIS in Iraq, che era la città di Mosul. E quindi noi siamo entrati all'interno di questa dei passaggi, delle varie operazioni che ci sono state ad opera delle SDF, e quindi ci siamo spostati prima ad Al-Bab, e poi siamo andati dal Karama, poi siamo stati a Tabqa, e poi siamo stati a Katunia, e poi a Raqqa, questo fino, diciamo, al 20 di settembre del 2017. Per quanto riguarda la vita con i curdi, la gestione che hanno per tutte le loro esigenze, per tutte le normali attività abitative, di vita, esigenze di vita, ma anche di combattimento. I curdi, per quello che sono riuscito a vedere, vivono tutti più o meno orizzontalmente, non ci sono dei comandanti, dei capi che comandano e hanno delle situazioni, delle strutture riservate, non c'è il circolo ufficiale, ci sono evidentemente delle persone che prendono in gestione più fronti, più gruppi, più strutture, però sostanzialmente quello che mangia il comandante, quello che mangi tu, è quello che puoi cucinare tu, è quello che puoi magari strappare a lui alla tavola. Quindi una struttura che formalmente ha anche una sua gerarchia, ma praticamente le persone che si trovano a essere i comandanti delle unità o i comandanti del fronte o i comandanti di un intero cantone non hanno particolari privilegi rispetto a quello che è la vita normale. I curdi, che sono strutturati e divisi in termine curdo è tabur, in unità, sono suddivisi in unità di 20-30 persone miste fra YPG e YPG, quindi maschi e femmine, uomini e donne, e si organizzano al proprio interno con delle suddivisioni di piccole unità, di unità ancora più piccole, cioè l'unità, la piccola unità che va poi sul campo, in 6 persone, in cui c'è il comandante di quell'unità, la persona che va in avanscoperta, di 2 Kalashnikov, l'altro che porta artiglieria pesante ma leggera, l'artiglieria mobile e Bixi, e l'altro che porta lanciarazzi, punto, contatto con la radio. Queste sono unità da 6 persone che si muovono in tutta la città e si spostano e si attivano sostanzialmente andando a occupare all'interno di una città un palazzo dopo l'altro, un caseggiato dopo l'altro, senza soluzioni di continuità, con estrema velocità, in modo da dare il meno tempo possibile agli avversari, all'ISIS, meno tempo possibile per riorganizzarsi e ricalibrarsi in una difesa. I curdi vivono, quelli che decidono di votarsi completamente alla causa rivoluzionaria, vivono in estrema e totale comunità, vivono quello che può essere considerato una vita di comunismo reale molto molto intensa, perché prevede che nessuna persona sia più possessore di proprietà privata, quindi abbandonano la proprietà privata individuale, abbandonano la gestione del denaro, abbandonano anche quindi la scelta anche difficile, anche non sempre praticabile, abbandonano anche la scelta di poter avere degli affetti, la vita sentimentale, un matrimonio, una famiglia. Questo perché chi è votato a decidere che ha come orizzonte della propria vita l'espansione della rivoluzione, prima locale e poi dopo che sarà la rivoluzione in Rojava, sarà magari la rivoluzione in Bakur, e poi in Bashur, e poi da un'altra parte, ha questo tipo di percorso davanti, non può sostanzialmente permettersi di tornare nella famiglia o avere dei figli o avere questo tipo di vita. E quindi i curdi vivono in questa unità, in comunità assoluta, e quindi dormono, vivono, mangiano assieme costantemente, continuativamente, e a volte combattono e a volte muoiono assieme, e portando avanti le proprie idee di rivoluzione, premurandosi sempre di avere sempre un occhio di riguardo rispetto a quelle che sono le esigenze del compagno. Sempre si chiamano fra loro Eval, Evala e Valen, la cui traduzione letterale sarebbe amico, ma cui la traduzione reale e senso è quello di essere compagno, cioè compagno politico, compagno nella vita e compagno nella rivoluzione. E quindi è il corrispettivo di Tavarish Russo, esattamente, che la cui traduzione è compagno. Questo è. E quindi. Tavarish Vittoria. Io non so, no, più o meno. Due parole, ci vediamo. non ti preoccupare, non va a ristorare. Io mi studio comunismo, capitalismo. Allora, grazie a Jack per la sua testimonianza, e sicuramente ha aperto molte questioni che, su cui ci potrebbero essere interventi e domande che vi chiedo di rimandare a dopo. Scusa, ti posso dire una cosa? Va bene, io continuo a parlare nel frattempo. No, molto rapidamente. Dunque, diciamo che in questo giro di interventi, da una parte chiaramente è stato approfondito il lato, diciamo, tecnico, territoriale, militare della questione, e adesso con Daniele vorremmo anche approfondire il lato sociale e politico. Certamente questi lati non sono disgiunti, ma anzi vanno considerati assieme tra loro. All'interno del concetto di confederalismo democratico troviamo appunto diverse idee di base, alcune delle quali sono secondo me bene riunite in questo libro Rojava, una democrazia senza Stato, che insieme ad altri trovate sul banchetto lì in fondo alla sala. È uno scritto a più voci, insomma a più mani meglio, in cui vengono fuori molti concetti. Io ne elenco alcuni di questi solo per dare il là a Daniele, appunto. Io vi ho trovato un'interessante descrizione di come amministrare in maniera autogestita la giustizia, il campo della giustizia. Vi ho trovato dei capitoli assai interessanti sul ruolo delle donne, a cui si è accennato adesso. Vi ho trovato, come dire, diverse forme di un esercizio diffuso del potere, e quindi un potere che non è dominio, un potere senza dominio, mi verrebbe da dire quasi appunto un potere diffuso senza dominio. E questo, insomma, al di là del gioco di parole, mi sembra un lato estremamente interessante. Vi ho trovato, soprattutto nel saggio di Greber, la questione dell'immaginario, cioè il Rojava ha qui, e non solo qui evidentemente, la capacità di accendere, incendiare l'immaginario. E credo che l'immaginario sia qualche cosa, un motore fondamentale per l'azione. E in questo c'è anche un paragone più o meno azzeccato, no, con la rivoluzione spagnola. Al di là delle differenze evidentissime, c'è però questa questione appunto di accendere l'immaginario, e si trovano alcune pagine interessanti di confronto con lo zapatismo, col neo-zapatismo, insomma quello che ovviamente c'è in Chiapas dal 94 a questa parte. Ci sono ancora diverse pagine interessanti sull'influenza importante di un pensatore e di un compagno come Murray Bookchin. Anche qui sul tavolo là in fondo trovate alcuni suoi testi, perché effettivamente sappiamo che i rapporti epistolari ovviamente tra Bookchin e Ocalan ci sono stati e sono stati proficui, e lo vediamo anche da come il Rojava viene trattata, lo diceva Jack adesso, la questione ecologica, ovviamente non disgiunta, ma anzi, come dire, incapace di assorbire la questione economica, quindi come l'economico sia subordinato all'ecologico in nome di un'ecologia sociale che è quella di Bookchin e di molti altri, certamente, ma teorizzata tra gli altri dai Murray Bookchin. Quindi la consapevolezza della stretta connessione, detta in altre parole, tra crisi ecologica e crisi sociale. Ecco, questo è molto altro. Penso che possano essere spunti per l'intervento di Daniele Barbier, che siamo molto contenti di avere qui. Daniele tiene tra l'altro un interessante blog che vi invito a visitare, La Bottega del Barbieri. Ultimi articoli interessanti, per esempio uno sulla fantascienza, no? In occasione della morte della scrittrice Ursula, come si pronuncia, Le Guin, francese, che mi ha molto interessato, e in ultimo appunto una recensione di questo testo. Quindi lascio la parola a Daniele. Grazie. Allora, io vi leggo qualche pagina. Siccome però io sono davvero molto curioso delle vostre domande, e poi non vi conosco, quindi non so quanto sapete, loro sono stati molto informativi, però magari bisogna fare pure qualche passo indietro, non lo so. Io direi a una persona di mia assoluta fiducia, Marco Trotta, di cronometrarmi e dopo 10 minuti mi interrompe, così dialoghiamo, ok? Poi se abbiamo qualche cosa da aggiungere anche noi dopo le domande ci riprendiamo la parola, però mi sembra giusto dare la parola a voi e dialogare. Allora, la prima cosa che vi voglio leggere è che a un certo punto del libro, in un'intervista appunto a David Graeber, gli chiedono che cosa lo ha colpito e lui risponde: mi hanno colpito molte cose. Ne dice una e poi dice la seconda, che quando l'ho letta alla compagna che è mia moglie, le è rimasto un sorriso oltre le orecchie, un po' come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Un sorriso che occupa tutta quanta la pagina. Credo che ancora stia sorridendo. Uno dei primi luoghi che abbiamo visitato è stata una scuola di polizia. Tutti erano tenuti a seguire dei corsi di risoluzione non violenta dei conflitti e di teoria femminista, prima di essere autorizzati a mettere mano a una pistola. Non so come la pensate voi, a me non sembra male. Invece un compagno che è noto come Hakeem Bey, ma che in realtà il suo vero nome è Peter Lambert Wilson, e a un certo punto dice: dove vi aspettereste di trovare un genio politico di prim'ordine se non in carcere? Non uso la parola genio a cuor leggero, unico leader di una rivoluzione reale nel triste mondo odierno. Ocalan propone una via d'uscita dalla trappola ideologica tanto della destra quanto della sinistra. Una via d'uscita non puramente intellettuale e teorica, sebbene indubbiamente lo sia, ma anche pratica, eccetera, eccetera, eccetera. E vi leggo un'altra cosa almeno. In nessun luogo al mondo è mai esistito un esercito femminile indipendente sviluppatosi all'interno di un esercito più generale. Qui risiede la nostra principale specificità. Qui si intervista appunto una di queste compagne. Questo libro è molto bello, è molto importante secondo me, ma è importante perché parla con vari punti di vista di qualcosa che è importante, di una rivoluzione che effettivamente è faticosamente in cammino, ambigua, piena di difficoltà, certamente. Lui diceva che io ho scritto di Ursula Le Guin, che ho amato molto, Ursula Le Guin, anarchica, femminista, antimilitarista, in uno dei suoi libri più famosi, dove parla di una rivoluzione non violenta, mondiale, in qualche modo vincente, in qualche modo confinata, sotto il titolo che è I reietti dell'altro pianeta, mette come sottotitolo un'ambigua utopia. Come l'utopia è ambigua? Sì, l'utopia è ambigua. E lei in forma letteraria, perché è una scrittrice, non è una teorica, lo racconta benissimo. L'utopia è sempre ambigua e sicuramente chiunque di noi vorrà, andrà, io ormai sono un po' vecchietto a 70 anni per andare in zona di guerra, però qualche tentazione mi viene. Chi magari è un po' più giovane, è più facile andarci, andando lì, che è sempre la cosa migliore, stare lì, dare una mano, capire, vedrà sicuramente alcune cose che non vanno, ma porco tutto quello che volete, porco il cosmo intero, porche tutte le galassie, ma c'è una rivoluzione in corso, e durante questa rivoluzione, durante i combattimenti contro i fascisti dello Stato Islamico, contro i fascisti di Erdogan e contro gli Stati Uniti e la Russia che cambiano continuamente posizione, ma certamente nei loro giochi sono sempre contro l'autodeterminazione dei popoli e contro la libertà. Questi che combattono tutti questi nemici, mentre combattono, e devono combattere, non c'è altra possibilità, se no si farebbero massacrare, studiano, discutono, rovesciano completamente le posizioni delle culture in cui sono vissuti, perché anche nella cultura curda il ruolo della donna è quella che c'è in tutto il patriarcato mondiale, no? Non è che per qualche miracolo nelle zone in cui ci sono i curdi il ruolo della donna era diverso, no? Era lo stesso, solo da molti anni e da qualche anno in particolare le cose hanno cominciato a cambiare. E una delle cose che raccontano le persone che è stato in Rojava è appunto il suo stupore nel vedere degli uomini giovani, ma anche non giovani, che provano per la prima volta a guardare il mondo con gli occhi delle donne. Non è poco, e non è poco mentre si sta combattendo. Quindi per questo tutti quelli che criticano, che hanno qualche cosa da criticare, secondo me non fanno una bella cosa, perché noi dobbiamo dare una solidarietà totale a chi sta lottando in questo modo. Poi loro stessi, credo, insieme a noi, insieme a tutti, vedranno che ci sono delle cose ambigue, delle cose che non vanno, delle cose che andranno cambiate, ma è sempre così. Quello che David Graeber, che mi ha molto colpito, racconta nel suo intervento, è che suo padre aveva combattuto nelle brigate internazionali in difesa della Repubblica Spagnola. Quindi stiamo parlando, penso che tutti lo sappiate, ma stiamo parlando degli anni 30 del secolo scorso. E quello che lui dice non può finire come è finita quella. E quella è finita in quel modo perché purtroppo, nonostante i molti volontari che andavano da tanti paesi a combattere lì, non c'era nel quadro internazionale una solidarietà così estesa da bilanciare gli aiuti che il fascismo italiano e il nazismo tedesco, nell'indifferenza di tanti stati che si dicevano democratici, stavano dando ai fascisti spagnoli. Non può finire in quel modo, e questo significa sì che molti internazionalisti andranno, sono andati e sono ancora lì, alcuni a combattere, altri in altri tipi di progetti che penso siano altrettanto importanti. Io non credo che le persone migliori che prendono le armi in mano si sentano migliori di chi per i più vari motivi non prende le armi in mano, no? Penso che tutti sono importanti in questo tipo di situazioni, no? E mi pare di aver capito che anche i curdi la pensano così. Io dico curdi e loro giustamente parlano di un insieme di popoli, un insieme di popoli che lì hanno vissuto in parte in pace, in parte divisi in guerra da molto tempo, e che in questa rivoluzione cercano di mettersi insieme nelle differenze. Perché la prima frase che vi ho letto, non si prende in mano una pistola se non si è letto qualcosa sulla risoluzione non violenta dei conflitti e sul femminismo. Beh, insomma, questa parola femminismo per molti popoli della zona è una parola terribile. Le donne che appartengono alla cultura islamica non possono semplicemente aderire a questo progetto, no? Non è così. Le donne curde possono, le donne, diciamo arabe per semplificare, non possono a meno che non rompano completamente con la loro comunità. Ci sono quelle che lo fanno, certo, ma non è così semplice. Quindi è un cammino estremamente lungo, che in una rivoluzione, ripeto, che è costretta a prendere le armi per sopravvivere, comunque si parli di femminismo, di ecologia, di non violenza, di democrazia dal basso, Per me è una cosa così straordinaria che ci chiama in causa. Come dice Zero Calcare alla fine del suo reportage, anzi di uno dei suoi reportage, perché ne ha fatti due, mi pare. Sapete com'è Zero? Penso che molti di voi lo conoscono, molte e molti di voi lo conoscono Zero Calcare, quindi sanno che lui combina sempre quest'ironia tremenda al tentativo di cose dire serie, e poi ogni tanto non ce la fa o lo fa alla romanaccia, come io lo capisco bene perché sono di origine romana anch'io. Comunque sia, insomma, in questa sua ironia, in questa sua certe volte disperazione, dice delle cose serissime. E le cose più serie non a caso le dice in questi reportage. Perché, ecco, lo so, l'ISIS continua ad avanzare, i combattimenti sono ancora in corso intorno a Kobane, è pieno di villaggi ancora occupati. Kobane stesso è un cumulo di macerie da ricostruire. Lo so, mica sono un coglione. Però quello che ho visto, le facce sorridenti, le facce di persone felici pure in questa situazione, erano una vittoria. Ora vittoria che se n'è andata, comunque erano una vittoria. Ma io mi sono chiesto a lungo, scrive Zero Calcare, perché io la percepissi come una vittoria nostra. Cioè io sto a Re Bibbia, Roma, a mille milioni di chilometri di distanza, forse è un po' esagerato, ma insomma, che cazzo mi porto a casa io di sta vittoria? La risposta sta nelle pagine di questo libro, nelle esperienze di chi ha scelto andare in quei luoghi, nelle voci, nelle facce, nel sangue e nelle storie. Sta nel cuore di chi sa riconoscersi e schierarsi nel campo dell'umanità. Sta in chi combatte i nuovi fascismi. Una parte dei nuovi fascismi, perché l'ISIS è fascismo, perché Erdogan è certamente fascismo, e poi fascisti sono anche gli altri, quelli che stanno dietro, lo sappiamo bene. E fascista di un fascismo diverso è anche l'Europa in cui viviamo. L'Occidente, come si dice, ma io ho smesso da un po' di tempo di chiamarlo Occidente, lo chiamo Uccidente, perché mi sembra che il termine è più preciso. Basta cambiare una vocale, ma chiariamo meglio di che cosa parliamo, perché è l'Occidente che ha le colpe principali di tutte le guerre che si succedono e in cui l'Italia sta sempre più precipitando. Per cui io non so se i miei 9 minuti e mezzo sono passati, Marco fammi un cenno, ok, per cui aspetto le vostre domande, poi molto volentieri se volete torno a parlare, come penso anche loro hanno voglia di dire altre cose, e finisco dicendo questo, che a un certo punto nel libro si dice che c'è una specie di proverbio, un modo di dire un po' amaro, aiuto, ora lo trovo, un po' amaro dei curdi, che è questo. Oh, oh, oh, oh. I curdi non hanno altri amici che le montagne. Questo è probabilmente una triste verità, nel senso che sono stati traditi molte volte dai vicini e da altri, e ora come amici hanno le montagne, che vuol dire poi la fase più terribile, vuol dire materialmente la fase più terribile della guerra, e simbolicamente vuol dire che ci sono solo le montagne, non le persone. Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo per una volta dare torto a questo proverbio curdo. Noi dobbiamo invece essere al loro fianco, questo è indispensabile. Avevano per amici solo le montagne, adesso cominceranno ad avere per amici, per alleati, spero non poche persone, ma milioni di persone al loro fianco, perché quello che sta succedendo lì, anche se è lontano da Bologna, da Re Bibbia, da tutti i posti in cui noi viviamo, è fondamentale per noi. è l'esperienza più importante, non solo di questo scorcio di secolo, ma di molto, da molto tempo, e ci ridà la forza, ci dovrebbe ridare la forza di sognare, di progettare, di arrabbiarsi, di pensare che la rivoluzione è possibile anche qui. E quindi noi dobbiamo moltiplicare il sostegno in tutti i modi, quello a breve termine, quello a più lungo termine, ed è un impegno fondamentale per noi, per le nostre vite, giovani come siete molti di voi o più vecchi come sono alcuni come me. È fondamentale, noi questo compito non dobbiamo trascurarlo, è fondamentale. In Rojava si decide una parte del nostro futuro, una parte importante. Trincerarsi dietro le puzze al naso, dietro qualsiasi cosa, o dietro la paura, che pure è una cosa sempre comprensibile, va sconfitta ma è comprensibile, non possiamo più farlo. In Rojava c'è qualcosa che ci riguarda tutti e dobbiamo veramente capirlo e comportarci di conseguenza. Le domande? Non è una domanda, solo... Va bene lo stesso. Io sono un curdo, vengo dalla Turchia. E io sono cresciuto con questa frase che ha appena detto lei, non abbiamo nessun amico che ha le montagne. Io vedo adesso tanti amici, tante amiche, proprio in questa sala, e credo che qualsiasi cosa succeda, la Turchia, l'ISIS o tanti altri nemici che vogliono soffocare questa rivoluzione, non riusciranno, magari ci prenderanno i terreni, magari ci uccideranno, però noi, con voi, con tutti questi compagni e compagne qua, riusciremo a far vivere questa idea che stiamo provando di fare, non so come dire. Comunque sono veramente emozionante, e sono emozionato e mi sento molto orgoglioso stasera con tutta questa gente in questa sala. Vorrei ringraziare tutti quanti e vorrei ringraziare i compagni che sono andati lì per combattere per il mio popolo, per loro stesso, e per questa rivoluzione, e vorrei ringraziare a tutti quanti. Grazie, grazie per essere. In un'intervista nel libro che citava Daniele, una guerrigliera curda dice: per noi non c'è un prima o un dopo la rivoluzione, perché con rivoluzione intendiamo qualcosa che è sempre in atto, una trasformazione e un'innovazione continue. Ecco, questo anche mi sembra qualcosa di fondamentale, là e qui. Io nel ricordare ancora una volta l'appuntamento di domattina, ma anche nel lanciare così per la prima volta nel 2018 almeno un appuntamento che da qualche anno ci tiene impegnati come nodo sociale antifascista e altre e molteplici realtà, che è quella del 25 aprile, cioè di un 25 aprile antifascista in senso come dire più generale possibile, e credo che quest'anno sia doveroso portare anche questo contenuto, anche il contenuto che stiamo sviscerando stasera all'interno del 25 aprile, e di fare nostra, ognuno coi suoi modi, appunto come si diceva, una lotta antifascista, una lotta internazionalista, ognuno come dire contro i propri, tra virgolette, fascismi che assumono diverse facce. Prima abbiamo, forse tolto la parola un po' bruscamente a Jack, che voleva concludere il suo intervento, almeno un attimo, quindi gli ridò il microfono. Sì, velocemente stavo parlando della vita quotidiana che c'era con i curdi, con le unità curde, comunque nella struttura degli YPG, e vi accennavo che appunto c'è tutta una completa vita comunitaria, molto molto collettiva, anche a un certo punto lontana, perché la vita, i propri piccoli spazi privati che noi sappiamo coltivarci molto bene in Occidente forse anche troppo, rimangono un po' schiacciati e alla fine questo un po' stride rispetto a quello a cui uno non è abituato. E rispetto alla quella che si può considerare la cultura militarista, un po' paradossalmente rispetto alla vita con dei guerriglieri e dei militari che vivono costantemente con un Kalashnikov al braccio, i curdi sono molto molto attenti alla vita, al benessere delle persone che gli stanno attorno, dei compagni con cui vivono, quindi costantemente si preoccupano, si premurano di domandare tu come stai, hai bisogno di qualcosa, ti serve qualche cosa alla fine del turno, al mattino, sopra, sotto, in qualunque situazione, sia nei confronti delle persone che gli occidentali che si muovono e arrivano un po' calate dal cielo in questo contesto, in quel contesto, ma anche tradizionalmente, tranquillamente, costantemente tra di loro, perché hanno questo tipo di approccio. Questo tipo di approccio che è anche confermato dal fatto che non ho trovato in un anno di decine e decine di persone con cui sono stato, con qualche difficoltà linguistica evidente che vi ho già detto, ho comunque comunicato, non ho trovato persone assetate di sangue, satanate, volenterose di vendetta. Sicuramente l'ISIS è nemico, non ci sono sconti da fare, ma la voglia di andare a liberare parte del territorio, riprendersi magari la propria città, abbiamo incontrato anche delle persone che prima erano state a Raqqa, che poi erano dovute fuggire perché con l'arrivo dell'ISIS non c'erano molte, una situazione sicuramente facile, ma non mai persone con la voglia, la smania di dover uccidere. Quello che mi hanno raccontato, e ho percepito, si vede comunque, che ci sono delle persone che hanno la necessità di trovarsi a doversi difendere, hanno la necessità di dover difendere la propria vita, le proprie tradizioni, la propria cultura contro un annientamento, un genocidio più o meno strisciante che va avanti da decenni e anche da secoli, e quindi per questa necessità quello si deve fare, non ci sono alternative a questo, come diceva Daniele. Dopodiché questa necessità non è un piacere, non è una cosa che rende accattivante la guerra, che continua a rimanere una cosa, diciamo, molto molto devastante in ogni caso, in ogni situazione, e appunto per questo, riprendendo quello che dicevi tu Daniele, assolutamente le persone che si vogliono muovere per andare a vedere quello che succede, come è successo a me e Paolo la prima volta o i primi viaggi che abbiamo fatto in Bakur e poi dopo in Rojava, vanno a vedere per capire con i propri occhi, con la propria vita, con la propria esperienza diretta, quello che succede. Non so quante volte capita nella propria vita di poter partecipare, avere la possibilità di vedere la rivoluzione. Noi siamo stati fortunati in questo senso, e ognuno si può muovere, andare e fare a seconda e dare una mano a seconda di quello che è il proprio campo, la propria esperienza e la propria voglia. Non esiste da nessuna parte nessuna unità che si muove senza poter mangiare, senza la logistica, senza i medici che poi ti curano le ferite, senza tutta una serie di... Non esiste un gruppo, un'avanguardia che è un'avanguardia militare che gestisce le cose. Lo YPG non è né sopra né sotto, ma di fianco al popolo curdo e al popolo siriano, siriaco, arabo, perché non c'è nessuna... Laddove c'è uno scollamento, la rivoluzione è già finita lì. Non c'è nessuna possibilità di andare avanti. Proprio per questo il ruolo preeminente che hanno avuto i curdi in questa rivoluzione, anche nella coalizione, non li ha portati, per fortuna, in modo condivisibile, a decidere di avere l'egemonia e il monopolio della gestione delle armi e quindi la sicurezza di questo territorio, ma anzi vengono invogliate tutte le comunità o a entrare nelle FG o a organizzarsi e auto-organizzarsi come propri corpi militari maschili e femminili, con i propri modi, con le proprie strutture. Poi si deve collaborare, si collabora, ma non c'è questo, non c'è la volontà di togliere un potere che c'era prima, la preeminenza degli arabi sui curdi e su tutti gli altri, e diventare i nuovi potenti, perché quello è un circolo vizioso che molte volte, diciamo, potrei quasi dire praticamente tutte le volte, ha segato, ha tranciato la testa a quello che è stato il bene della rivoluzione, dell'insurrezione, della ribellione rispetto a un potere precedente. Sostituire un potere non è rivoluzione, ma è poi fregare la rivoluzione. Questo è un tentativo in cammino, non finito, non definito, che va avanti e procede con fatica ma con determinazione assoluta da parte dei curdi, che sono in questo cristalline davantini, non si muovono, hanno una linea, quella è, e sono inarrestabili. Usa il microfono, tizio. No, no, no, no, usa questo, se no non ti sente nessuno. Una piccola cosa, di che entità è al momento attuale l'aiuto internazionale da parte dei compagni e delle compagne in quelle zone di rivoluzione, diciamo? Raccogliamo un po' gli interventi, c'era lui per esempio? Ok. Io volevo chiedergli, cioè, dopo che avete passato tanti mesi in un'esperienza rivoluzionaria così potente, come è stato il vostro ritorno qua all'interno, qua in Occidente, qua in Italia, e come vi sentite adesso, qual è la vostra prospettiva? E vi volevo anche chiedere che insegnamenti avete preso dal femminismo. Rispondete a questi due intanto. Sì, ma se ci sono altre domande, no, okay, mi sembrano impegnative le due. No, sicuramente, ma, però. No. Giusto? Basta, aspetta. No, io poi mi dimentico. No, io pure, se mi dimentico. Vai. Rimaniamo, scusate, se magari sarà più tardi. No, giovane, allora, poi mi dimentico. Io volevo fare una domanda che ho fatto anche ad Holm. E la domanda è, noi concretamente cosa possiamo fare per aiutare questa meravigliosa rivoluzione? Ok, sono tre, me la ricordo. Vi aiuto adesso, io sì. Allora, per quanto riguarda gli internazionali, internazionalisti, occidentali, in vario modo, da tutto il mondo, si sono spostati per andare in Rojava e Kurdistan, per dare una mano e supportare in vario modo nel militare, nel civile, nella struttura militare, nella struttura civile, questa rivoluzione. Diciamo che purtroppo rispetto a, possiamo considerare i fasti, del 36-37, l'esperienza della Repubblica in Spagna, in cui si parlò di 40.000 persone volontarie che sono andate a supportare la lotta contro Franco, il fascismo, eccetera, eccetera. Qui in tre anni, dal 2014 a 2017-18, penso che più o meno possiamo parlare di 2.000 persone e in tutti i tre anni. Vuol dire che ci sono persone che sono state 3 mesi, ci sono persone che sono state sono lì da 3 anni, da 2, gente che è andata una volta 6 mesi, è ritornata un'altra volta, una seconda, una terza, quindi a vario titolo e in vario modo, però diciamo che i numeri sono rappresentati in modo sparso, vario, più o meno da tutto il mondo, e però comunque con queste entità, 5-2.000 persone suddivise negli anni. Come siete cambiati? Tornare. Allora, io personalmente non sono cambiato niente, cioè sono andato via un anno e sono tornato e ho detto sì, molti si aspettavano, anche io immaginavo, temevo anche di cambiare in alcune cose, sostanzialmente sono andato via un anno in un mondo completamente diverso, in un altro universo, in un altro mondo, un altro cosmo, perché talmente distante la situazione culturale, la questione della guerra, la questione geografica, fisica, alimentare. Su tutti i piani mi sono trovato, come gli altri compagni, in una situazione talmente lontana da essere in un altro mondo, e da un altro mondo poi me ne sono ritornato, fortunatamente poi di nuovo nel mondo di prima. Io personalmente sono cambiato nulla, nel senso che sono arricchito di esperienze, di quelle cose che ho visto. Quello che posso aver percepito e percepisco di diverso nel ritornare in questo mondo occidentale, europeo, italiano, è quello di percepire in modo diverso quello che è la nostra situazione qua. Sostanzialmente io personalmente ritengo che siamo in un mondo, rispetto a quello spazio-tempo di guerra del Medio Oriente e del Rojava, in un mondo assolutamente privilegiato, in un mondo di lusso, in un mondo di ricchezza, materiale, ma anche di libertà, anche della possibilità ideologica di crearsi tutte le proprie sfaccettature, la propria idea politica, il proprio piccolo orticello, il proprio piccolo giardino ideale ideologico, e quindi purtroppo mi trovo in una situazione un po' stridente in cui, come citava anche Zero Calcare in frammenti, ma anche gli altri compagni, la sensazione è quella: com'è possibile che compagni là che oggi sono vivi, domani sono morti, non sanno vivono una realtà di guerra quotidiana, costante, da anni, prima di repressione e poi per fortuna di liberazione, vivano meglio, si vivono meglio le proprie piccole cose semplici, elementari, come stare assieme, mangiare assieme, vivere assieme, in una vita assolutamente molto precaria, realmente precaria, perché muori domani, c'è un bombardamento che arriva nella notte e non arrivi il giorno dopo, non ci sei più, e rispetto a noi che abbiamo sicuramente mille difficoltà, certamente ci sono disoccupati, precarietà, tutte le mille sfaccettature della sfiga italiana ed europea, però sostanzialmente abbiamo infinite cose in più rispetto a quello che è il mondo di là, che vive di pastorizia e agricoltura, che potrebbe essere quella del Medioevo. Sì, ci sono dei telefonini, ci sono delle parabole, delle strade, di ciottoli, un po' di asfalto, però nel 200 anni fa, 300-500 anni fa, i villaggi di terra e di argilla e paglia erano gli stessi, alcuni adesso sono in mattoni, ma la vita è quella. Alcuni, la percezione che abbiamo avuto è che vivono meglio là di quello che noi viviamo qua, e quindi allora dici, allora siamo noi che siamo scemi. Non mi so dare una risposta, però sicuramente c'è qualche cosa che non torna rispetto alle molte infinite possibilità, perché una riunione così per parlare di evoluzione in Turchia non la puoi fare, non puoi parlare in turco, perché sennò ti arrestano, non puoi, hanno perseguito adesso rispetto all'attacco che sta facendo Ramoscello Utilivo, l'operazione si chiama, quindi già un nome particolarmente fastidioso, le hanno perseguito, stanno denunciando le persone che hanno dato solidarietà, non solo per strada, perché Erdogan li ha minacciati direttamente, non vi azzardate a scendere in strada per manifestare solidarietà dei free, perché vi stronchiamo, vi disintegriamo, ma stanno perseguendo le persone che via Twitter, via social, eccetera, via rete, una realtà virtuale, hanno scritto delle cose a favore di Efrin. Ecco, il femminismo te lo lascio a te. La domanda non la ricordo, però. Cosa ci ha lasciato il femminismo? Sì, quali insegnamenti del femminismo? No, e poi cosa possiamo fare? E cosa possiamo fare qui? Cosa possiamo fare se vuoi provare? Sì, così risponde il compagno. Beh, diciamo, quella diciamo, è la parte più complessa, diciamo. Quando si è giù, che si fa l'accademia, ogni diciamo internazionale fa due giorni di ginologia, che è la scienza delle donne, chi un giorno, chi in due giorni, dipende in quanto tempo si riescono ad affrontare tutti i vari discorsi che sono della ginologia, che è una scienza che diciamo studia il mondo con il pensiero femminile. Sì, ovviamente tra Medio Oriente e tra Occidente c'è anche molta differenza culturale, in cui magari se il femminismo, se la lotta femminista, noi in Europa, qui in Italia, è incominciata negli anni 70 nel popolo curdo, in Kurdistan, è arrivata un po' dopo. Basta anche pensare negli anni 90, anche all'interno del movimento curdo è stato fatto anche un lavoro all'interno, prima dei compagni e dopo della popolazione, proprio perché all'interno del movimento il maschilismo e il patriarcato era molto presente. Certo, non è che magari tu sei lì che combatti insieme alle compagne, non hai magari diciamo non stai nella stessa base, non dormi nei stessi luoghi, però quando combatti sei lì. Magari la roba strana che puoi vedere, magari queste compagne che entrano davanti a te, sono davanti a te all'interno dei villaggi in cui ci sono le donne completamente velate, ma non perché gliele imposto, attenzione, nel senso sì, l'ISIS impone il velo integrale, però quelle donne lì, o c'era l'ISIS, o c'era Assad, o c'era qualcun altro prima negli anni 40, in cui hanno vissuto in dei villaggi dispersi, in cui nessun stato è arrivato, in cui il patriarcato è radicato a centinaia di anni, tu vedi queste compagne che proprio vanno all'interno dei villaggi, che vanno a parlare con i capi di tribù, proprio perché al di fuori delle città, la società è molto tribale, ed è quello il primo passo diciamo della rivoluzione delle donne, proprio che vedi tu in prima persona che sono le donne che vanno a parlare con i capi tribù dopo un'operazione militare in cui il villaggio è stato appena liberato, in quel primo messaggio che porti è proprio quello che una donna, attenzione, no, quello che penso io personalmente non deve far paura solo perché c'è un'arma. Sì, magari in Siria per molti uomini la donna viene rispettata, magari perché c'ha un mitra, c'è una K-47 in mano, però le compagne assolutamente non è quello che vogliono, proprio vogliono il rispetto e l'uguaglianza della donna a differenza che ci sia un'arma oppure che non abbia un'arma. E diciamo un internazionale vede la lotta femminista, la lotta di liberazione delle donne messa proprio in pratica con questa roba qui che prende in un villaggio in cui ci sono gli uomini che comandano il capo tribù e sono proprio le donne senza velo, con un uniforme militare e tutto, che vanno a parlare con questi capi villaggio e queste robe qui un po' ti sconvolgono, perché magari da una parte vedi la donna completamente con il velo fino alla testa e dall'altra vedi una compagna che prima va a parlare con i capi villaggio e poi va a parlare con le donne. Spero di essere stato, diciamo, chiaro. Dunque, sulle donne, sul femminismo, vi consiglio, se non l'avete mai letto, di guardare un documento abbastanza breve, ma molto chiaro, che si chiama La carta del contratto sociale del Rojava. Lo trovate in giro su vari siti, e anche sul sito della casa editrice che ha pubblicato il libro, che si chiama Eleutera. Vedi, bisogna studiare il greco a scuola invece di andare a giocare a pallone. E, è un documento molto semplice ma molto importante, perché di continuo ribadisce questo punto dell'eguaglianza tra uomini e donne. E sì, certo, qui da noi sembra un fatto scontato, anche se poi ricoperto da mille ipocrisie, ma stiamo parlando della Turchia, dove poche settimane fa ha circolato una notizia, pochissimo in Italia, tant'è che ho detto, Madonna, ma sarà un pesce d'aprile prematuro? Invece no, non lo era, che la principale organizzazione, diciamo, entità dello Stato che si occupa di religioni ha detto sì, certo che il matrimonio si può fare anche fra minori, i maschi 11 anni e le femmine 9. La Turchia è questo, è un posto dove le bambine possono essere violentate, sposate, cioè violentate legalmente a 9 anni. Si torna indietro, perché la Turchia non era questo prima di Erdogan, ha avuto alti e bassi, ma non era questo. Ora, questa è la cosa, e qui la notizia è circolata un po' così, come no, non c'è stato né sdegno né nulla, quindi stiamo parlando di una rivendicazione di assoluta parità, motivata, spiegata, della volontà di superare un retaggio appunto che è secolare e non solo lì, come un punto fondamentale. Però io non vi posso dire come sono cambiato andando in Rojava, perché non ci sono andato. Vi posso dire, secondo me, quello che si può fare qui. Provo a immaginarlo con voi. Allora, la prima cosa è non essere soli. È un momento difficile di relazioni, certamente, per mille motivi, ma essere soli è sempre sbagliati. Quindi noi dobbiamo unirci, dobbiamo fare le cose insieme, trovare gruppi di affinità, crearli, inventarci nuove relazioni, sì, ma dobbiamo agire in molti, non basta la testimonianza singola. Quindi non dobbiamo essere soli qua per qualsiasi cosa che ci riguarda, ma per qualsiasi cosa che riguarda anche la solidarietà. La seconda cosa essenziale è sostenere ovviamente questi progetti. Parliamo di chi va lì in armi, parliamo di chi va lì civile, e parliamo di tanti progetti piccoli che magari sono anche solo soldi, ma sono importanti, perché l'università delle donne è sostenuta anche con solidarietà internazionale. Le scuole sono sostenute per esempio in Italia da un progetto fatto a Alessandria, se non mi ricordo male. La questione della purificazione dell'acqua è sostenuta in parte anche da un progetto dell'Arci di Firenze. Quindi voglio dire, ci sono mille progetti che possono essere sostenuti, io non li conosco tutti, ma li possiamo studiare insieme, li possiamo, chi vuole impegnarsi non trova enormi difficoltà, e altri se ne possono creare. E poi c'è l'aspetto che riguarda l'Italia. La questione è politica, io non so se tutti sanno che Öcalan nel 1999 fu consegnato praticamente ai turchi, sì certo da una congiura internazionale, ma in buona parte anche grazie a quel signore che si chiama Massimo D'Alema, il che a molti non stupirà se hanno buona memoria, perché ha portato l'Italia in guerra, a qualcuno che ha scarsa memoria o magari è solo più giovane stupirà. Ma l'Italia contribuisce ovviamente anche militarmente. Io so per certo che fino a poco tempo fa la Piaggio forniva, la Piaggio ha fabbriche a Pisa e se non sbaglio anche in Piemonte, sto dicendo una sciocchezza? Forniva armi da combattimento, armi che non potevano essere scambiate per altri scopi alla Turchia. C'è stato negli anni passati qualche tentativo di opporsi. Ovviamente è diverso se davanti alla Piaggio ogni giorno ci sono manifestazioni, se parte il boicottaggio delle merci Piaggio, se tutti parlano della Piaggio, se Piaggio diventa una bestemmia. Chi ha una certa età, il privilegio e anche il peso dell'età, si ricorda quanto pesano queste campagne. Se nessuno dice Piaggio assassini è una cosa, se cominciano centinaia di migliaia di persone a dire Piaggio assassini, la cosa cambia. Può cambiare parecchio, può perfino significare che a un certo punto la Piaggio dice forse non ci conviene. E se lo fa uno, poi lo fa un secondo, e lo fa un terzo e si rompe la catena. Quindi individuare tutte quelle che sono le complicità dirette o indirette. Facciamo una mappa? Facciamo una mappa. Ok. Scusa per intervenire. Ti sento, sì, se parli forte penso li sentono tutti. Due cose, purtroppo il popolo curdo ha conosciuto D'Alema come un eroe, perché così detto in Kurdistan, D'Alema aveva detto se Öcalan esce dall'Italia io mi dimetto. Ovviamente si è dimesso per altri motivi, però la notizia che è arrivata in Kurdistan era un politico italiano, il primer d'Italia, si è dimesso perché Öcalan è stato consegnato. E quindi purtroppo tanti curdi pensano che sia un buon uomo. Comunque, però io un curdo che vive in Italia sono un po' schifo. Comunque, e poi l'altra cosa che volevo dire proprio a proposito di quello che ha detto adesso, tutti noi possiamo mandare una semplice email al Parlamento europeo dicendo quei 3 miliardi di euro che dovete dare a Turchia, cosiddetto per i migranti siriani, vanno per la guerra. Bravo. Quindi tutti noi possiamo semplicemente mandare una email al comunità, cioè al Parlamento europeo, che ne so, qualsiasi mezzo che possiamo mandare una email, giornali, riviste, partiti politici, partiti che sono creati adesso magari che sembrano più di sinistra, non lo so, magari possiamo scrivere al potere al popolo, a, come si chiamano, uguali, liberi uguali, cioè quelli che diciamo, non lo vedo bene, dire che quei 3 miliardi c'è anche paga una buona parte Italia ovviamente con tasse vostre, che vanno, non vanno per gli immigrati siriani, vanno per la guerra, e quindi cioè, possiamo semplicemente mandare una email a tutto quello che possiamo, Parlamento europeo, tutti i partiti, qualsiasi mezzo che possiamo arrivare in qualche modo. Se mandiamo semplicemente 100.000 email, sicuramente qualcuno ne parlerà, cioè, sicuramente arriverà da qualche parte. Basta mandare stasera, domani mattina, basta accendere il computer e mandare una email dicendo ciao, non vogliamo pagare questi soldi a Turchia, perché i soldi che paghiamo noi, che sono le tasse nostre, vanno in guerra, e non vogliamo che i soldi sono investiti per questa guerra, che uccidono non solo curdi, anche, cioè, anche in altre zone. E quindi magari questa è una cosa che può fare, cioè, può fare qualsiasi persona. Aggiungo solo una cosa a quel piccolo elenco, poi forse... un'altra cosa abbastanza fondamentale da fare è che la Turchia, come sapete, è pieno di prigionieri politici e di prigioniere politiche. Allora, i numeri sono impressionanti, ma se molte di queste persone diventano un nome che conosciamo, che adottiamo, che in qualche modo con mille difficoltà, perché per esempio le lettere scritte in un'altra lingua in carcere non vengono consegnate, eccetera, eccetera, diventano nomi che noi difendiamo, le cose cambiano. Chi è stato in carcere o chi ha avuto esperienze di questo tipo sa che cambia completamente essere un prigioniero politico, un prigioniero di coscienza adottato da Amnesty o da qualsiasi altra organizzazione e non esserlo. È completamente diverso. Fra l'altro, molti giornalisti coraggiosi, credo il primo paese al mondo, il secondo, la Turchia, per il numero di giornalisti in carcere, molti giornalisti sono in carcere non perché sono curdi, ma neanche perché sono in particolare contro il governo, se non dopo le ultime svolte, ma perché hanno fatto il loro dovere. Per esempio, avendo avuto delle testimonianze che delle armi dell'ISIS passavano sui camion militari turchi e avendo le fotografie e le testimonianze l'hanno raccontato. Questo fanno i giornalisti, se non sono serbi fanno questo, raccontano le notizie dopo averle verificate. Per questo uno dei giornali più importanti turchi è stato chiuso e sono ancora tutti quanti in galera. Poi, come forse sapete, perché le notizie circolano più difficoltà, circolano in certi momenti con facilità le foto della bella guerrigliera col mitra che suscita un ambiguo sentimento, uno strano sentimento nei giornalisti e forse anche non solo nei giornalisti. Non ci si interroga su perché queste donne hanno preso le armi, su cosa sono, sull'alternativa, ma la bella guerrigliera col mitra fa copertina. Dopodiché, finita quella copertina, finita quella moda, non se ne parla più. Ecco, invece ci sono moltissime cose da raccontare e dobbiamo farlo, dobbiamo conoscere questi nomi, conoscere queste storie, e sapere anche che cosa esattamente si sta cercando di fare nelle carceri turche, dove c'è una resistenza eroica. Probabilmente molti di voi che sono più militanti ricordano o hanno sentito parlare da quelli più vecchi del fatto che i guerriglieri dell'IRA a un certo punto fanno lo sciopero della fame, no? Ne muoiono 11 alla fine, e ottengono, che cosa ottengono? La libertà. No, ottengono di non portare le divise in carcere, in sostanza. Vi sembra poco? No, è una cosa enorme per loro, era una cosa enorme. Infatti lì si sono aperte mille crepe in Inghilterra. Quindi sapere che in Turchia molte volte questo è successo, ma per qualche motivo, io adesso non voglio tentare neanche di dire, se muoiono di fame a decine in Turchia non lo sappiamo, mentre invece lo sappiamo dell'Irlanda. Ecco, anche di recente nelle carceri turche curdi, ma non solo, hanno fatto queste lotte e anche qui andavano sostenute. Sembra relativamente semplice convincere il Comitato contro la tortura di Bruxelles che di questo si deve occupare. C'è un Comitato dell'Unione Europea contro la tortura che si deve occupare di questo, di verificare le condizioni delle carceri nei paesi dell'Unione Europea e anche in quelli che hanno chiesto l'adesione, e formalmente la Turchia in teoria ha chiesto l'adesione. Ecco, la Commissione Europea contro la tortura non c'è andata nelle carceri turche. Anche qui cerchiamo di trovare un modo collettivo di mandarceli a calci in culo se non ci vogliono andare, no? Tempestiamoli, impediamo loro di vivere, chiamiamo con nome e cognome i responsabili di questa commissione e gli diciamo: se non vai in Turchia che cazzo stai a fare? Ma che cazzo vivi chiamandoli Comitato contro la tortura se non ti occupi di andare a vedere le carceri dove c'è la tortura? Ma che cazzo sei? Un verbe, un fascista? Cominciamo a chiamare queste persone con nome e impediamogli di non fare quello che tra l'altro appunto è il loro dovere. E facciamolo noi il nostro dovere, facciamolo tutti insieme, facciamolo davvero. Io da da anni cerco di tenermi informato e di seguire quel che succede in Siria del Nord, sia tramite fonti più mainstream, sia tramite quello che scrivono i compagni sui social network e sui siti di movimento. Ci sono due cose cui sto facendo fatica a trovare risposte in questo periodo. La prima è come sta concretamente andando nelle zone dove non si sta combattendo, si sta combattendo di meno, cioè quanto sta avanzando il tentativo di creare una società rivoluzionaria, una società nuova in base a tutti i principi che ci siamo detti, se ci sono resistenze, quali sono le difficoltà, e penso che questo ce lo stiamo raccontando abbastanza poco, non dico necessariamente stasera, ma anche in tutta la produzione di testimonianze, di libri e quant'altro di questo periodo. E l'altra cosa che l'altra domanda a cui che mi pongo è adesso la campagna contro Daesh, contro l'ISIS è nella sua fase finale, salvo sorpresa che non sia ora nessuno, però da quello che è dato capire l'ISIS si è ridotto a occupare piccole sacche nel territorio siriano, e la partita che si apre ora è molto più complicata, nella misura in cui vede io col cuore tendo a credere moltissimo in questa rivoluzione, con la testa mi spavento molto perché vedo attorno, come ci stiamo dicendo, la Turchia con tutta la sua potenza militare e il fascismo del suo regime. Vedo superpotenze come Stati Uniti, Russia e Iran che magari in alcuni momenti possono essere non ostili o anche alleati, ma che sicuramente non sono entità che hanno nessun interesse nel successo di un esperimento rivoluzionario in Medio Oriente. E quindi temo anche prima di quest'ultimo, di questa tappa alla fine, ogni giorno sempre temuto che una pressione, un voltafaccia violento da parte tanto delle forze di Assad quanto degli Stati Uniti e della Russia in particolare. Ora, e la proporzione militare, da quello che mi pare di capire, è grossa, è evidente ed è preoccupante. Però al contempo vedo che in questi giorni ad Afrin si sta resistendo, sicuramente non stanno avendo vita facile i turchi nel penetrare quel territorio, in alcune zone sono stati respinti, hanno dovuto indietreggiare, questo mi dà grande speranza. Appunto, quanto bisogna essere preoccupati, questa in soldoni la domanda. Allora, per quanto riguarda quello che dovrebbe succedere dopo la rivoluzione, cioè la parte diciamo più bellica, più di scontro con Daesh, come ricordavi tu, è sostanzialmente finita. Fino alla scorsa settimana, due settimane fa, c'erano forse 3 chilometri, da quello che ci dicevano i compagni con cui siamo in contatto giù, tra Deir ez-Zor, che è l'ultima città lungo l'Eufrate, verso il confine iracheno, quindi l'ultima parte di sacche di resistenza dopo aver già perso completamente la città di Deir ez-Zor, quindi c'è una parte di territorio tra le zone semidesertiche che sono a nord dell'Eufrate e il confine iracheno, quindi quella parte lì è sostanzialmente finita e svuotata, e in tutta la parte della confederazione della Siria del Nord ormai di Daesh sostanzialmente non ce n'è. Ci sono delle sacche al di sotto, a sud dell'Eufrate, che è una zona, se già al nord è semidesertica, per me è deserto puro, però al sud dell'Eufrate c'è il deserto vero e proprio, quindi il nulla cosmico e la polvere, e lì forse ancora staranno. C'è tutta una serie di centinaia, migliaia di guerriglieri, ISIS, foreign fighters o non foreign fighters locali, che si sono già riagganciati, riciclati in esercito siriano libero, in altre sacche, altre strutture jihadiste come Al-Qaeda Siria, cioè Jabhat al-Nusra o Tahrir al Sham, quindi varie componenti, perché la galassia, la spinta jihadista sicuramente va avanti, si ripropone come un'idra, quindi sicuramente se è finito l'ISIS continuerà, come c'era prima Al-Qaeda, ci sarà ancora Al-Qaeda dopo, nelle varie accezioni, vari nomi, come altri si sono riorientati per andare nella zona del Sahel, nella parte africana, nel centro africana, e altri ancora si sono spostati verso la Libia, perché comunque l'ISIS è riuscito a ottenere potere e affermazione solo in una situazione di guerra civile, in una situazione di caos politico, dove non c'è un potere forte che riesce a reprimere tutta una serie di cose, e lì è riuscito ad attecchire. E questo è appena finito, i curdi con la coalizione hanno finito di attaccare l'ISIS, ha giustamente, come già aveva promesso l'alleato storico della Turchia, Erdogan, l'alleato storico dell'ISIS, la Turchia di Erdogan, hanno ovviamente attaccato i film, punto. Per quanto riguarda la parte che dici tu, la parte della società, come la società percepisce la rivoluzione, sicuramente da quello che possiamo aver percepito il terreno più rallentato in cui si sta muovendo la rivoluzione, ed è il terreno più ostico, ed è quello che da qui in avanti, negli anni futuri, sarà il terreno più difficile in cui si potrà dire questa è una rivoluzione vincente, perché riesce a muoversi, a radicarsi nella società, a instillare le proprie idee che piano piano riescono a permeare il tessuto sociale, quindi cambiare da un certo punto di vista un po' la cultura locale, e quindi deve essere vincente, portare avanti, rimanere, sopravvivere, oppure rimanere residuale. Non c'è nessuna possibilità o per questa rivoluzione di andare avanti, o riesce realmente a interagire con la società, o non avrà possibilità di portare avanti la propria vita di neanche un giorno. Questo percorso è già sicuramente andato avanti, è partito con i consigli e le comuni, i consigli locali, le comuni, la struttura del confederalismo democratico, già da prima del 2011, prima ancora che arrivassero le primavere arabe, già i curdi, diciamo, in una situazione più o meno clandestina, incominciavano a muoversi ed organizzarsi tra di loro nei consigli per decidere di organizzare autonomamente sempre più aspetti della realtà della società, fino a che hanno avuto poi il passaggio del 2012, la presa di potere reale, e quindi da lì in avanti gestire in prima persona direttamente il territorio. Questo ha avuto come sempre come difficoltà il fatto che gli arabi, la parte etnica, culturale maggioritaria, assolutamente maggioritaria nella Siria, è quella che ha mantenuto il potere nella Siria fino all'altro ieri, con le due suddivisioni, con le due sfumature religiose, sciiti e sunniti. La dittatura di Bashar al-Assad è legata alla famiglia Assad, che è comunque una minoranza culturale di arabi, di sciiti, alawiti, che sono filo iraniani nello scontro da sciiti e sunniti che vanno avanti da secoli. E quello che è stato il timore percepito, raccontato, vissuto più o meno nei libri, è quello delle popolazioni arabe, che si trovavano ad avere prima i curdi sottomessi, che non contavano niente, quindi insomma se veniva un genocidio massacro nei confronti dei turchi e dei curdi era normale, avevano il timore palpabile e reale che la presa di potere dei curdi nei cantoni di Kobane e Jazira potesse poi essere il presupposto di un nuovo cambio di potere. Quindi prima sono stati repressi per decenni, mo ci sono loro, adesso ci sono loro al potere, saremo tutti fregati. Lentamente stanno percependo che questo non è, e la dimostrazione di questo fatto è che sempre di più si sono costituite milizie arabe, sunnite, sciite, comunque arabe, di religione islamica, di lingua araba, che sono andate a far parte della coalizione dell'SDF. E questo ha permesso a tutta la coalizione di andare a proseguire con l'assedio di Raqqa e poi l'eliminazione dei jihadisti a Raqqa. Senza questo non sarebbe stato plausibile, possibile, una liberazione di Raqqa araba da parte dei curdi, perché sarebbe stata percepita assolutamente come una guerra di conquista, quindi di fatto è già questo un piccolo tassello. Più ancora, il percorso assolutamente non è finito, è quella la grande sfida della rivoluzione che va avanti, che procede solo in cammino, il 20 di settembre scorso, 2017, c'è stata la prima elezione in tutti i cantoni, compresa Jeffrin, Kobane e Jezire, di tutta la parte della Confederazione della Siria del Nord, per l'elezione del primo livello della gestione delle comuni, quindi tutte le città, tutti i villaggi, nella suddivisione dei vari comuni, dei vari quartieri, eccetera, eccetera, hanno eletto i primi rappresentanti all'interno di questa struttura. E quello che era un'aspettativa di circa il 60% di popolazione votante è stato superato, perché sono arrivati a votare il 75% della popolazione. Ci sono sicuramente ancora delle diffidenze, ci sono ancora dei timori, perché il Medio Oriente è tradizionalmente legato a guerre continue, e quindi c'è stato Assad, c'è stato Saddam, poi ci sono stati gli americani, poi si è diventato l'ISIS, prima c'era Al-Qaeda, poi dopo l'ISIS ci sarà magari ancora di nuovo Al-Qaeda, quindi parte della popolazione è abituata a salutare con un sorriso, ad essere dalla parte di chi imbraccia in quel momento il Kalashnikov, e questo è comprensibile. Quindi il fatto che ti salutino anche molto gentilmente non vuol dire che poi dietro siano solidali e vogliano portare avanti questo progetto. È lì che va avanti la sfida, è lì che devono continuare a portare avanti la parte più difficile, perché ancora relativamente sparare è semplice, è anche magari semplice morire, però poi nella vita di tutti i giorni andare a fare in modo che ci sia un contatto culturale, umano e solidale all'interno di una società multietnica, che non si porti poi al fatto che appena finisce la guerra la gente comincia a tagliarsi la gola alle spalle, in un altro momento, quella è la sfida che va avanti. E lascio da dire l'altra parte su Efrin, Russia, America. Beh, sì, su Efrin ancora ovviamente diciamo sono state scoperte completamente le carte, poi ovviamente i compagni e le compagne erano consapevoli fin da subito che non si ci poteva fidare, non ci poteva essere una collaborazione politica né con la Russia ma nemmeno con gli Stati Uniti. Molte volte si è stati criticati da altri compagni proprio sentendosi dire di essere filo americani o filo imperialisti, ma i compagni e compagni fin da subito hanno dichiarato che con gli Stati Uniti c'era assolutamente un'alleanza militare. Se prima il nemico comune era l'ISIS, che doveva essere distrutto e sconfitto militarmente, in cui tutti gli stati erano uniti contro questo nemico qui, ma erano anche consapevole del fatto, è stato da sempre dichiarato, che non si può avere una collaborazione politica con gli Stati Uniti e con la Russia, essendo degli stati nazione, proprio perché questa rivoluzione qui può parte da una critica agli stati nazione, e questa roba qui proprio si è vista ad Efrin, in cui diciamo il giorno, vi dico una roba che magari purtroppo è girata poco questa roba qui, il giorno prima che partisse l'operazione Ramoscello d'Olivo, anche a me fa storcere abbastanza le putella questa roba qui, partisse l'operazione della Turchia contro diciamo il cantone di Efrin, il giorno prima la Russia, che aveva due basi militari, e i compagni avevano concesso due basi militari sul cantone di Efrin, perché attenzione, è bello parlare da qui i compagni danno le basi americane agli americani, ai russi, si crea la cintura intorno a Manbiji, però purtroppo quando sei in guerra devi anche saper giocare tatticamente, e i compagni lo sanno fare, visto che stanno combattendo da 40 anni sia nelle montagne che non contro degli stati molto, molto potenti, quindi avevano concesso delle basi militari proprio anche per una sorta di tutela diciamo del territorio, proprio creare delle tensioni all'interno dei membri della NATO, che sono diciamo Russia, Turchia, Stati Uniti, e anche di membri non della NATO sempre presenti in Siria, tra cui anche diciamo l'Iran. Quindi il giorno prima in cui partisse l'operazione, la Russia aveva chiesto ai compagni e alle compagne proprio di cedere alcuni territori del nord della Siria al regime Assad, sostenuto dai russi. Ovviamente i compagni e le compagne hanno risposto assolutamente di no, e la risposta della Russia è stata quella che non poteva essere, non potevano difendere i curdi del cantone di Efrin da un attacco dalla Turchia, se se non fossero stati ceduti dei territori ad Assad. Quando la risposta è stata no, il giorno dopo, alle 4 del pomeriggio, sabato, la Turchia ha sganciato decine di bombe contro il cantone di Afrin e la Russia se n'è andata verso, diciamo, il bleed. È stato proprio questo qui il gioco. Io ti lascio fare a Afrin, però io me ne vado a Idlib, che era stato proprio occupato dall'esercito turco tre mesi prima, perché attenzione, a Afrin c'erano sempre degli attacchi da parte dell'esercito turco, però non era stato concesso lo spazio aereo alla Turchia, non c'erano stati mai raid, diciamo, di aerei verso il cantone, verso le postazioni dei compagni e delle compagne, ma solo corpi di mortaio. E quindi dopo il via libera della Russia, in cui, diciamo, non c'era più nessuna protezione, non c'era più nessuna influenza russa nel cantone, la Turchia ha attaccato, come così anche dalla parte del cantone di Cezire e di Kobane. L'esercito turco non ha intenzione di invadere quei cantoni lì, e comunque, diciamo, attacca e provoca i compagni delle compagne, ma anche la popolazione, il cantone di Kobane e di Cezire, proprio perché sono sotto influenza diciamo statunitense, ma non perché gli Stati Uniti sono amici dei curdi, perché in Siria, diciamo, è nato un conflitto molto grosso in cui sono presenti molti stati, e quindi tu praticamente ti trovi in mezzo a una guerra, diciamo, più diplomatica, più economica tra i vari stati, in cui tu devi cercare di metterti in mezzo e di giocare tatticamente all'interno di questa guerra qua. Però attenzione, quando c'è stato il bombardamento il 25 aprile della zona di Karachok, anche se quella zona lì è sotto, diciamo, protezione, diciamo, statunitense, di influenza statunitense, gli Stati Uniti, anche la Russia, avevano ricevuto di questo bombardamento qui, perché attenzione, nessuno Stato membro della NATO può attaccare diciamo uno Stato senza avvisare i membri della NATO. Quindi il bombardamento che c'era stato ad aprile, sia la Russia sia gli Stati Uniti erano stati avvisati mezz'ora prima del bombardamento, e il giorno dopo, quando sono arrivati, diciamo, i generali americani nella zona di Karachok, la risposta data, diciamo, che era stata data, era stata detto: ok, noi non sapevamo dell'attacco, non potevamo fermare la Turchia, perché sennò sarebbe stata una dichiarazione di guerra con la Turchia. È ovvio che a nessuno fa piacere, diciamo, una confederazione, tante piccole confederazioni, è assolutamente una rivoluzione che critica proprio lo Stato nazione, ma tantomeno i compagni e le compagne non si fidano degli stati imperialisti presenti in Siria, ed è ovvio che purtroppo adesso ci sia una situazione del genere, perché si sapeva che quando sarebbe stato sconfitto l'ISIS una situazione del genere si sarebbe creata, e i compagni anche sono stati furbi, sono stati bravi a giocare su questa roba qui, sapendo prima del cosiddetto tradimento che sarebbe stato, che poi il tradimento non è stato, perché gli americani non erano assolutamente amici, così come i russi, né tantomeno l'esercito turco o la NATO. Non c'è stato nessun tradimento, sono state solo scoperte le carte in tavola, e quando tu porti avanti una rivoluzione, diciamo, anticapitalista, ecologista e femminista, purtroppo alla fine vuoi o non vuoi ti devi scontrare con degli stati ancora più forti di te, perché i compagni la contraria non ce l'hanno, i jet non ce l'hanno, quindi viene attaccato. Però se non diciamo la guerra non viene fatta solo con gli armamenti, ma viene fatta anche con la tattica, con la furbizia, e non a caso i compagni resistono in Babur, come anche in Bashur, nelle montagne da 40 anni, e anche Afrin, diciamo, in confronto agli altri territori della Siria, in cui, diciamo, è praticamente solo deserto, è solo pianura e campi di grano. Afrin fortemente qualche cima di piccola montagna ce l'ha, e quindi è più difficile militarmente che la Turchia entri ad Afrin in 5 minuti varcando la frontiera con decine di carri armati. Magari sarebbe più facile nel cantone di Kobane, di Cezire, visto che è tutto per una, solo che i cantoni lì sono sotto influenza statunitense, quindi non si potrebbe creare una guerra tra due stati, diciamo, membri della NATO. Io, se non tolgo la parola a nessuno, volevo aggiungere tre cosette, ma veloce. Posso? Allora, una è, volevo dirvi, la vostra partecipazione ai progetti di solidarietà, che sia piena e fino in fondo. Mi spiego. A me è capitato di andare, tra l'altro, con bolognesi, che non vedo qui, ma insomma, proprio poco prima, casualmente, che Ocalan fosse catturato, cercavamo attraverso la Siria di arrivare in Turchia a portare dei medicinali che erano stati raccolti dalla solidarietà popolare e anche grazie alle ASL, AUSL, come si chiamavano allora, cioè alle strutture sanitarie pubbliche. C'era un attacco turco contro la Siria, c'era una situazione che noi non capivamo, ma si sarebbe capita dopo poche settimane, appunto, con l'arresto di Ocalan. Siamo stati bloccati, fermi in Siria, abbiamo deciso di distribuire comunque i medicinali che c'erano alle popolazioni curde e non curde che ne avevano bisogno lì, piuttosto che lasciarli non si sa bene a che. Bene, quando abbiamo guardato questi medicinali per cercare di dividerli secondo un criterio, che non tutti i farmaci per i malati di cuore andassero in un posto e non tutti i farmaci per i malati di fegato andassero in un altro, quindi di dividerli in modo che arrivassero nei campi già un po' di distribuiti, abbiamo buttato un po' più del 50% dei farmaci che ci avevano dato le ASL dell'Emilia Romagna perché erano scaduti da anni e anni. Questa è la solidarietà del cazzo, che tante volte ci si riempie la bocca e poi sono farmaci non solo inutili ma pericolosi, perché se sono scaduti da anni possono avere effetti devastanti. Quindi per dire che i progetti vanno seguiti, soprattutto se non si conoscono le persone che li mettono in piedi e se sono le istituzioni, virgolette, democratiche di questo paese. Volevo dire una cosa sull'informazione, soprattutto sull'informazione di pace, non di guerra. Avendo fatto il giornalista per un po' di anni, sia in posti normali, diciamo, sia in posti in un posto strano come il Manifesto, un po' diverso dagli altri, vi devo dire che la cosa più difficile da far passare non solo nei giornali normali ma perfino in un posto come il Manifesto è il fatto che esistono le buone notizie che sono importanti come le cattive. Raccontare quello che succede in tempi di pace in queste zone liberate è altrettanto importante che raccontare un orrendo bombardamento, perché quello che sta succedendo in queste zone dove c'è purtroppo una breve interruzione di guerra è che appunto il progetto continua e che quindi le assemblee di quartiere, le assemblee di villaggio, le assemblee cittadine, no? Sono partecipate, gli incarichi sono tutti a rotazione, la quota minima di partecipazione delle donne del 40% non può scendere sotto e in tutti quelli che sono incarichi, diciamo, più importanti c'è sempre un uomo e una donna, perché se no se fai il 60 e il 40 è un casino, quindi c'è sempre un uomo e una donna. E questo non è poco, no? E questo appunto è l'altra faccia. Tu diceva che cosa succede, no? Chiedeva al compagno in questo momento. Succede questo, che è una cosa straordinaria. Naturalmente con tutte le difficoltà, io insisto su questa cosa del femminismo, perché non io, ma David Graeber e poi una compagna di cui vorrei leggere una paginetta, proprio una paginetta breve. Per esempio David Graeber scrive: la questione più spinosa qui in questa zona resta probabilmente quella dell'emancipazione delle donne. Questa è centrale nell'idea di rivoluzione elaborata da appunto i compagni, ma si scontra la necessità di stringere alleanze con le comunità arabe che la percepiscono come una violazione dei principi religiosi fondamentali. Mentre le popolazioni di lingua siriaca hanno dato vita a collettivi femminili, gli arabi non l'hanno fatto. Le donne arabe interessate ad affrontare le questioni di genere o a partecipare ai seminari femministi devono unirsi o ai sirie o ai siriaci o agli stessi curdi. Questa questione della religione, che noi molto spesso ignoriamo, è invece una questione fondamentale lì come per altri versi qui. Voglio leggere una mezza paginetta di questa compagna che si chiama Dilar Dirik, che è una sociologa, ma è una sociologa, credo che insegnava all'università, ha scelto di andare invece nelle zone liberate, quindi lei si definisce attivista, ex sociologa e attivista. E lei scrive questa paginetta che secondo me ci chiama in causa, sembra scritta per noi. In un mondo capitalista in cui il consumismo e l'individualismo sono spinti sempre più all'estremo e dove non sembrano più esserci cause per cui valga la pena di lottare, una resistenza collettiva condotta strenuamente fino all'ultimo proiettile appare un atto irrazionale del tutto inconcepibile. Il sacrificio, la resistenza, il senso comunitario e la stessa lotta per la giustizia e la libertà sono stati radicalmente estirpati dalla nostra coscienza e oggi sembrano piuttosto beni di consumo da utilizzare in vuoti dibattiti, in manifestazioni occasionali e in magliette ribelli prodotte da fabbriche basate sullo sfruttamento. Mentre le onde continuano a portare a riva i corpi dei rifugiati, rapidamente trasformati in statistiche, i crimini contro i sogni delle persone e le loro speranze in un futuro migliore vengono cancellati. Il fatto che siano le donne di una comunità dimenticata a essere divenute il più temibile nemico dello Stato Islamico, la cui ideologia si fonda sulla distruzione di tutte le culture, le lingue e i colori del Medio Oriente, ribalta completamente la tradizionale concezione dell'agenda politica. Kobane entrerà a far parte della storia della resistenza umana non perché gli uomini hanno difeso le donne o lo Stato ha protetto i propri sudditi, ma perché donne e uomini sorridenti hanno fatto dei propri corpi e dei propri ideali il fronte ideologico contro il quale l'ISIS e la sua violenta visione del mondo sono andati in pezzi. Domande. A che ora in Piazza Maggiore? Chiedo innanzitutto se ci sono altre domande. E mentre ci pensate, ne approfitto per ricordare e l'appuntamento di domani alle 11 col presidio per contro l'attacco turco a Refrin e a sostegno della rivoluzione di cui abbiamo parlato stasera e colgo anche l'occasione per dire che tanto come VAT 61 quanto come Nodo Sociale Antifascista siamo tutti molto contenti di essere riusciti a mettere in piedi questa iniziativa, avere avuto noi per primi e questa occasione e che in tanti abbiate voluto condividerla con noi. Passo di nuovo la parola a lei che aveva un intervento conclusivo, a meno che appunto se ci sono domande non siate timidi che non ci torna dietro nessuno. Allora, quello che volevo dire velocemente era rispetto a quello che possiamo fare. Sicuramente le prime cose che si possono fare è anche partecipare a questi presidi, momenti pubblici in cui uno cerca almeno di dimostrare democraticamente per quello che sono le possibilità in questa società il proprio dissenso rispetto a guerre di invasione fasciste come quella che sta portando avanti la Turchia nei confronti di Afrin. E poi personalmente io penso e ritengo che cogliendo l'invito a non essere soli, che già ricordava prima Daniele, è quello che soltanto una società unita può riuscire a trovare le soluzioni ai propri problemi e alle proprie difficoltà. Se possiamo prendere spunto da una rivoluzione che non si può trasportare, perché la rivoluzione del Rojava ha senso là, in quello spazio-tempo, in quelle coordinate umane, teoriche, relative. Noi possiamo prendere degli spunti, ma le rivoluzioni possono essere vincenti solo e soltanto se vengono riorganizzate, ripensate e reimmaginate rispetto alle esperienze culturali individuali che si trovano nel luogo, nel posto in cui le persone vivono. Non si può prendere un progetto che viene dalla Russia e portarlo da un'altra parte, e anche se viene da Rojava, che secondo me ha delle buone carte in tavola per andare avanti e proseguire in modo forse migliore o non peggiore, non si può prendere l'esperienza del Giove e cercare di tradurla qua con una traduzione letterale, ci si può ispirare. Sicuramente si può prendere come spunto il fatto che già prima che il potere di Assad crollasse o cedesse il passo alla gestione del confederalismo democratico, già prima il popolo curdo si era, aveva cominciato a organizzarsi con dei consigli, con delle assemblee popolari, con le case delle donne, cercando di risolvere prima i problemi pratici, poi cercando mano a mano di allargare l'entità e la quantità di problemi che andava ad organizzare e ad amministrare, fino ad arrivare a un punto in cui sono arrivati a una gestione talmente ampia che sono diventati loro quelli che gestivano il proprio territorio e poi si stanno portando avanti, si stanno muovendo. Questo penso che sia l'unica possibilità che noi abbiamo per cercare di invertire il percorso di individualizzazione anche portata nella nuova mitologia della libertà occidentale, che ci vede però di fatto singoli individui, singoli moscerini schiacciati, schiantati di fronte a tire e treni che ci disintegrano e che ci rendono assolutamente insignificanti e che poi di fatto tagliano e distruggono tutte le volontà di aspirare a una vita migliore che sta soltanto nelle nostre mani, nella nostra volontà. Solo noi possiamo decidere di muoverci adesso, ora, cercando di autogestirci nella miglior maniera possibile, in più spazi possibili tra di noi, e decidendo qua a Bologna quello che magari non ha senso a Torino o in un quartiere piuttosto che in un altro, quali sono le cose da fare assieme per cercare di arrivare noi prima di arrivare al punto in cui lo Stato, come sta procedendo secondo me lo Stato italiano, in generale quello europeo, di sfaldarsi completamente, arrivare ai tempi antichi in cui chi poteva permettersi il medico con certe situazioni se lo permetteva, gli altri morivano tranquillamente, quietamente. Noi dobbiamo organizzarci prima di essere abbandonati progressivamente da questo Stato che personalmente ritengo marcescente già da molti anni. Grazie di essere intervenuti a tutti quanti, alla prossima, ciao.